È bello incontrarsi dal vivo, adesso si può dire dal vivo, no? È bello essere qui, anche per questa nuova avventura, ogni domenica ne è una. Certamente io non vi ossessionerò con la lettura del giorno, che è... Uno Corinzi 7, questa ossessione gliela lasciamo al pastore, va bene? Così lui ci ossessiona a farci leggere, che è molto bello anche quello di oggi. È importante che leggiamo, io vorrei sottolinearlo e ribadirlo fino al non ne posso più. È importante leggere perché la lettura della parola ci addestra, ci rieduca, ci incoraggia, ci guarisce, ci stimola. È tanto importante averla sempre presente perché noi in pratica, noi in genere agiamo in funzione sempre di quello che pensiamo al riguardo delle situazioni che ci sono intorno. Quindi io penso e così agiamo. E invece noi dobbiamo preoccuparci piuttosto di dire: e come pensa il Signore di me e delle situazioni? Io voglio leggere un passo perché vi sto dando quello che io ricevo da parte di Dio, specialmente in questo periodo. È un passo molto breve, si trova in Isaia al capitolo 43, è il verso 4. È incredibile, vedete quello che dice. Perché? Cambiate il tu. Che mettiamo? Perché io sono prezioso agli occhi tuoi. È incredibile. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Sei stimato e sei amato. Sei stimato e sei amato. Vedi, è importante comprendere questo concetto per noi. Una pietra preziosa, un diamante, è sempre diamante. La propaganda dice per sempre, ed è vero, è per sempre. Tu lo puoi sporcare ed è diamante, tu lo puoi buttare nella spazzatura e rimane diamante, è sempre diamante. E questo sono io e sei tu agli occhi di Dio. Noi siamo pietre preziose, noi siamo preziosi agli occhi suoi, a prescindere da quello che noi facciamo, viviamo o siamo. Noi siamo preziosi per lui. Ecco perché noi dobbiamo anteporre ogni volta, dobbiamo mettere davanti: e il Signore che pensa di me e che pensa di questa situazione? Il più delle volte, ed è reale della realtà, mettiamo davanti il nostro pensiero, quello che io penso, quello che io vivo in relazione alle stagioni, a questa stagione. Noi viviamo adesso, di conseguenza, per quello che viviamo, non usciamo, usciamo con timore, ci ritiriamo, ci allontaniamo dagli altri, non ci abbracciamo, ci diamo i pugni, no, solo in senso... perché è di conseguenza a quello che viviamo. Ma ritorniamo, la parola di Dio, la parola di Dio, la parola di Dio ci educa, ci guida, la parola di Dio ci mostra quello che noi dobbiamo fare, o meglio, come vivere le situazioni che noi abbiamo, qualsiasi esse siano. Non dipende dalle situazioni, ma dal nostro atteggiamento. Leggiamo il passo in fila. Sono tutti passi molto conosciuti, che leggiamo 10.000 volte perché sono di incoraggiamento. Però è importante ribadirlo ogni volta nella nostra mente. In Filippesi al capitolo 4, il verso 8, è scritto questo. Quindi, fratelli, le cose vere, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quella in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Vogliamo dare un titolo a questo passo? Che titolo daresti? Esattamente, sì, viene proprio fuori. Pensare positivo, non ho detto essere positivi, che è pericoloso dirlo di questi tempi, va bene? Ho detto perché la parola di Dio dice siano oggetto. Praticamente è anche quella che Simona diceva prima nella lode adorazione, è una decisione che si deve fare, siano oggetto, io mi devo ingegnare, mi devo preoccupare, mi devo concentrare a prendere nei miei pensieri le cose vere, le cose giuste. Stai vivendo ingiustizia? Come la combatti? La combatti arrabbiandoti? La combatti deprimendoti? La combatti scagliandoti contro l'altro? E il più delle volte il risultato è negativo. Cioè, dicendola alla maniera di questo periodo, è positivo, cioè non è buono. Ma la parola di Dio dice, fai esercizio, prendi una decisione, incomincia a vivere. Stai vivendo ingiustizia? Ricordati di tutte le cose giuste che tu hai vissuto pur non meritandole. Ricordale, riportala alla mente, siano oggetto dei tuoi pensieri, è scritto. Cioè non è qualcosa che noi, io prego, Signore, cambia i miei pensieri, fa che i miei pensieri siano amorevoli, buoni, che siano pieni di giustizia e di verità. Non succede, non succede. Qui dice il Signore, ti sta dicendo, mi sta dicendo, ci sta dicendo, siano oggetto. Cioè li devi prendere ad esame, li devi mettere sul tavolino e studiarci sopra, li devi ricordare ogni volta che vivi qualcosa. Questo è pensa positivo, non ti viene naturalmente, non ci viene, lo dobbiamo dire anche, non ci viene naturalmente, non è una cosa che accade, è un esercizio, è un allenamento, è qualcosa che dobbiamo prendere proprio in esame, perché pensare positivo è come un po' vivere fuori dalla realtà. È un poco la strategia dello struzzo. Basta che metto la testa, chiudo gli occhi, non vedo i problemi e non ci sono i problemi. Così sembra quando noi diciamo, pensa, quando la parola di Dio dice, pensa positivo, obbligati a pensare positivo nelle situazioni che stai vivendo, obbligati ad avere pensieri positivi. Stai vivendo, che ne so io, vendetta da parte degli altri, sia amorevole. Nei pensieri. Incomincia a benedire, incomincia a pregare per l'altro. Questo non cambia l'altro, cambia me, cambia il mio cuore e mi dà una nuova prospettiva. Invece il pensare positivo non è che così, che è vivere fuori dalla realtà e non vedere i problemi e non sentire i problemi. Il pensare positivo invece è vedere attraverso gli occhi della fede. E la fede è positiva. La fede confessa il vero di Dio, non il vero mio. La fede confessa l'azione di Dio, non la mia azione. È la fede che mette in azione l'opera del Signore nella mia vita. È la fede che mette in movimento il Signore a far realizzare il meglio per me. E io vi assicuro che Lui lo sa qual è che è meglio per me, quello che è meglio per me. Può a me sembrare che non è buono, ma Lui lo sa quello che è buono per me. E di questo noi ci dobbiamo fidare, a questo noi ci dobbiamo affidare anche, non solo fidare, perché noi viviamo la cultura del negativo, è reale, tutti qua, nessuno escluso, noi veniamo educati in problema, noi cresciamo in problema. Tu, ma qualsiasi esempio noi vogliamo fare, il più tipico che facciamo sempre, vai a scuola, i bambini, vai a parlare con gli insegnanti, ha preso 9, che cosa ti dice l'insegnante? Poteva fare meglio. Io dico, 9, nemmeno in condotto l'ho mai visto in vita mia, va bene. Ma per dire, è qualcosa di incredibile. Noi viviamo la cultura del negativo intorno a noi, cioè praticamente il detto pensa male che ti viene bene. Ma voi vedete l'assurdità di una cosa del genere? Cioè, pensa male che ti viene bene. Cioè, io devo soffrire 2 volte. Allora, devo fare qualcosa in cui devo riuscire. Allora già penso male. No, non andrà. No, non riuscirà. No, non può essere che proprio a me viene bene. No, e sto soffrendo mentre sto andando in quel luogo, oppure sto facendo quella cosa, sto soffrendo perché sto pensando che non andrà bene. Ed è una sofferenza veramente pesante dentro. Poi vai lì e la cosa non riesce. E soffro di nuovo perché non è riuscito. Cioè devo soffrire 2 volte. La parola di Dio invece dice: siano oggetto dei vostri pensieri le cose buone. Allora io non devo andare baldanzoso e forte a dire andrà tutto bene. No, io andrò ripetendo a me, il Signore va avanti a me, sa quello che è buono per me e andrà comunque bene per me qualsiasi cosa. E io già mi sto rilassando, le mani non mi tremano più. I pensieri si calmano, la bocca incomincia ad avere di nuovo la saliva e realmente vivi un'altra dimensione. Poi, se va bene, che va bene la cosa, sei capace di buttarti dal dirupo per la felicità e gioisci 2 volte. Ecco perché la parola di Dio va presa in considerazione, ma realmente nella nostra vita. Noi, ancor peggio del vivere l'educazione, noi viviamo in problema, veniamo educati in problema. Ed è a questo che noi dobbiamo stare attenti, educando i nostri figli, a educarli in positivo, in buono. Non ti viene, sforzati, non ti riesce di dire la cosa buona, obbligati, perché stai dando quello che è la direttiva futura per tuo figlio, ma anche per gli altri, anche per l'amico, anche per il fratello, per la sorella, per tutti. Noi dobbiamo incominciare a parlare, a esprimerci in positivo. Non c'è niente di essere positivo quando io vado in macchina e siccome non è che sono sempre attento, prendi una di quelle buche grosse e che cosa ti viene da dire? E pago pure le tasse. E così noi agiamo verso qualsiasi cosa, non a ringraziare che c'è una strada e che ho una macchina e che mi posso spostare anche velocemente. No, vado a vedere quell'unica buca che ho preso. In questo noi, ma questo lo viviamo costantemente in tutte le direzioni. Tua moglie, tuo marito, chiunque ha cucinato una bella minestra, buona, bella per vedere, e ti viene sempre chiesto, beh, com'è? Un pizzico di sale in più l'avrebbe aggiustata. Ma è dentro proprio, non è forse, non manca nemmeno, anzi ci piace pure così. Ma è proprio dentro vivere questo. Ecco che noi dobbiamo estirpare il negativo. E lo estirpi non pregando e digiunando, quello fa molto bene, ma armandoti e prendendo pensieri positivi e ripetendoli e visualizzandoli davanti a te, scrivendoli semmai. Quando è importante scriverli, lo vivi due volte. Quello che però è peggio nella società in cui viviamo, da cui noi siamo anche circondati, è che viviamo la cultura del non peccato. Il peccato viene annullato. Con il dire semplice, che c'è di male? Come che c'è di male? Il peccato è peccato. E noi stiamo annullando il peccato. Anzi, addirittura, il peccato diventa il positivo. Prendi solo l'adulterio. Prendi solo la convivenza. Anzi, no, oggi, come oggi, e io non parlo per sentito dire, ma perché mi è stato detto in faccia, sono i genitori che consigliano ai figli la convivenza. Dice, prova. Prova, se non va bene. Cioè, partendo da questo, è logico che noi sperimenteremo il male più male. Perché stiamo annullando il peccato, stiamo annullando quello che è la legge di Dio. L'omosessualità. Se voi seguite la televisione, il fattore dell'omosessualità, quasi quasi ti senti male a non esserlo. Perché tutti questi sono così osannati, così importanti, così scrivono libri e tutti che tu dici, ma sono normale io? Non ha dell'assurdo questo? Noi, ma realmente, anche se non li facciamo ad alta voce questi commenti, anche se non li viviamo forse intensamente, però ti viene da pensare, dici, caspita, ma questo veramente, forse, questa è normale la cosa. La parola di Dio dice no. La parola di Dio dice no. Il peccato è peccato e il peccato fa vivere la sofferenza. Il peccato fa vivere la sofferenza. Sempre, sempre, sempre. La conseguenza del peccato è la sofferenza. E ecco perché noi dobbiamo estirpare questo pensiero. Semmai non pecchiamo, ma quel pensiero di giustificare il peccato. Prendi anche l'imbroglio. Non è perché tutti lo fanno, lo devo fare anch'io. Perché imbrogliare diventa sinonimo di scaltrezza, di intelligenza. Lo scemo sono io che non lo faccio. E ti fanno sentire realmente così. Ti fanno sentire in questa maniera. Per questo è importante estirpare il pensiero della giustifica del peccato, perché questo è negativo e ci fa vivere sofferenza. Faccio alcune, a me piacciono, voi lo sapete, molti di voi lo sanno, che tanto i personaggi della Bibbia mi piacciono perché io mi confronto continuamente e vedi tramite di loro l'atteggiamento che tu devi prendere. Perciò è scritto nella Bibbia tutte quelle storie che possono sembrare anche fantastiche. Prendi Davide davanti a Golia. Che cosa aveva di essere positivo quest'uomo, questo ragazzo? Cioè, il re, un esercito intero, viveva il negativo, era bloccato dalla paura. Che cosa aveva lui da pensare positivo? Perché ti viene automaticamente il pensiero dentro. E non sono riusciti loro, che sono degli specialisti, sono adatti, sono allenati alla guerra e al combattimento, devo riuscire proprio io che sono un pastore? Viene questo pensiero. Che cosa aveva in più Davide di tutti gli altri? Due semplici cose, sapete. Confidava nel Signore e l'esperienza. Sono le due armi che ci permettono di vincere in ogni situazione. Confida nel Signore, anche se è tutto storto, mettilo sempre davanti, mettilo davanti, perché Lui è avanti, perché tu sei prezioso per Lui. Allora Lui farà di tutto per recuperare quella pietra preziosa. Ti può cadere nella fogna più nera un brillante, tu ti butti dentro. E Dio lo fa per noi, e il Signore Gesù lo ha fatto per noi. Quindi noi siamo preziosi agli occhi suoi, e lui fa di tutto per recuperarci. Perciò, che cosa aveva? L'esperienza. Aveva solo l'esperienza. Infatti, che cosa ha confessato? Ha confessato il positivo. Dice, l'Iddio che mi ha aiutato con il leone e anche con l'orso, non vuoi che mi aiuto contro questo nanetto qui? Probabilmente erano le due uniche esperienze di Davide, non lo sappiamo, di così grande. Però lui le ha messe davanti, e proprio per quella esperienza, per mettere davanti quello che lui aveva vissuto, lo ha portato alla vittoria. È incredibile. Vedete il pensare positivo? Così possiamo fare altri esempi nella Bibbia. C'è anche, per dire, Lot viveva in una società incredibile, in una società tutta negativa, dove l'adulterio, l'omosessualità era la norma, e lui viveva la purezza nella sua famiglia. Se n'è dovuto andare. Oppure, questo è proprio classico, sono tutti esempi conosciuti a noi, ma ce li dobbiamo ripetere continuamente. Paolo e Sila, beh, mi sapete dire che cosa avevano da cantare? Cioè, erano con la schiena aperta, buttati nel carcere più profondo, legati a ceppi, e questi cantavano. Allora è vero il det canta che ti passa? Ha la sua realtà. Loro cantavano il positivo, cantavano le lodi del Signore. Anche se ci troviamo qui, anche se stiamo sperimentando questo, ma tu sei grande nella nostra vita. Io non lo so quali erano i canti o i salmi che stavano cantando, ma certamente cose positive che li hanno portata alla liberazione, hanno sperimentato la liberazione, hanno sperimentato la vittoria. Poi il non plus oltre per me è l'esempio che me lo rifaccio sempre, di Stefano. Non Stefano Nos, che pure lui l'ha subito, ha capito un po' quello che ha vissuto Stefano il martire, no? Veniva lapidato, aspettava solo la pietra che lo colpisse per fargli perdere i sensi, e lui che cosa pensa? Pensa agli altri e dice: Signore, perdona loro, non lo sanno quello che stanno facendo. È incredibile, ha benedetto gli altri, e fra quelli che ha benedetti C'era? Chi c'era? Paolo. È incredibile. Fra quelli che benedici c'è un Paolo. Fra quelli che perdoni c'è un Paolo. Sempre, sempre. Ecco perché i pensieri positivi, esercitarsi. Gli è venuto naturale a Stefano? Non credo. Io credo che l'unica cosa di positivo che lui stava vivendo era dove sarebbe andato. Questo era quello che viveva positivo e questo gli ha permesso di confessare e dire il bene e dire il vero. E così possiamo continuare con gli esempi, però vedo che il tempo passa. La conseguenza del peccato è sempre, sempre la sofferenza. Vedete, prendiamo proprio la nascita del peccato con Adamo. Appena lui ha peccato, qual è stato il primo pensiero che ha avuto? Vergogna? La vergogna è pensare meno di se stesso. La vergogna è non credere in se stessi. La vergogna è sotterrarsi. È la paura. Quella è l'altra gamba. È la paura. È la paura. E questo gli ha fatto perdere la comunione con il padre. Non è Giuseppe, è Jonathan. Andiamo verso la conclusione. Ma il Signore pensa in soluzioni. E questo dobbiamo guardare. Il Signore pensa sempre in soluzioni. Per Adamo ha fatto un sacrificio per vestire la loro vergogna. Per noi ha fatto un sacrificio per togliere via la colpa e il senso di colpa dalla nostra vita. Il Signore pensa in positivo e pensa in soluzioni. Le spine, conseguenza del peccato, non erano nel piano di Dio, non erano, erano la conseguenza del peccato. E per questo noi ci dobbiamo riappropriare del piano originale di Dio con ognuno di Dio, con ognuno di noi. Il Signore ha un piano specifico e dettagliato per te, per me. Individuale, non generico e generale, ma individuale, ed è di quel piano che noi ci dobbiamo riappropriare. È vero, il maligno lo ha rubato da noi, ce l'ha nella sua cassaforte, lasciamoglielo. Ed è vero, perché lo vediamo le conseguenze ogni volta che lui va a guardare che il Signore ha un piano per noi, lui agisce di conseguenza e ci taglia le gambe, non ci permette di riuscire di vivere. Lasciamogliele, ritorniamo all'architetto, al creatore di quel piano per me e ridomandiamolo: che cosa vuoi? È la stessa cosa che abbiamo detto all'inizio. Che cosa vuoi da me in questa situazione? Come devo vivere in questa situazione? E il Signore ti ridà il piano. Ultimi esempi di vedere la guarigione di Dio. Tommaso. Sempre personaggi della Bibbia. Io mi nutro di questi. Tommaso, tipico di tutti quanti noi, se non vedo, non credo, anzi quello ancora peggio, se non tocco, voleva mettere proprio il dito dentro, non credo. E qual è stata la guarigione di Gesù nei suoi confronti? Vieni e tocca il costato, ha messo la mano nel costato. Già credeva quando lo ha visto probabilmente, però mettere quella mano e toccare quello che il Signore voleva da lui lo ha guarito dall'incredulità, dai dubbi e dalle incertezze. E noi abbiamo bisogno di guarire da queste cose, perché sono sentimenti e sono atteggiamenti dentro di noi che determinano il nostro agire. Altro esempio, lo stiamo anche per vivere noi, gli apostoli è il miracolo dei pesci e dei pani. Qual è stata la prima, il primo pensiero degli apostoli a Gesù? Che cosa hanno detto? Ci vogliono 200 danari. Ci vogliono 200 danari, come per dire, non sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Dove li andiamo a prendere tutti questi soldi per sfamare allora? E Gesù come li ha guariti? Dicendo, che cosa avete? Quel poco che hai, il Signore lo moltiplica, se noi confidiamo in Lui. Vedete, noi stiamo per vivere anche dono perché amo. Dice, e può venire il pensiero, e viene il pensiero. A me è venuto il pensiero, va bene? Diciamolo proprio per estese. Dice, ehi, ma proprio di questi tempi si deve fare dono, non si può saltare almeno un anno, visto che stiamo vivendo questa situazione di disagio e di difficoltà? Quel poco che hai a disposizione del Signore guarisce il cuore nostro e fa avere la vittoria. L'ultimo esempio, e poi leggiamo un passo, mi sfugge, Mosè, qual fu la risposta di Mosè a Dio quando l'avevo chiamato per fare tutta quella sorta di cosa? Ma io non so esprimermi. Quando noi diciamo così, ma io non so fare, ma io non riesco, stiamo dicendo che lo devo fare io. Sto confidando in me stesso, mi sto fidando di me e io effettivamente non sono capace. La guarigione del Signore per Mosè non è stato fare il miracolo, si dice che aveva la balbuzie, ma non si sa esattamente, ma il miracolo di Dio per Mosè è affiancargli il fratello. Lui trasmetteva al fratello e il fratello trasmetteva a Faraone. Incredibile! Vedi come il Signore opera e agisce quando noi mettiamo fiducia in Lui. Per terminare, allenati, alleniamoci, esercitati, esercitiamoci, obblighiamoci a pensare positivo e il Signore va oltre e ci fa vivere il bene. Vedete quello che è scritto, l'ultimo passo, in Salmo, al capitolo 3, il Salmo 3, verso 3, un breve passo. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, qualsiasi situazione stai vivendo, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Amen.